Italia in controluce. Un venerdì che fa paura, quello di oggi, un venerdì a cui ci si prepara ormai da giorni con misure di sicurezza eccezionali, soprattutto per quanto riguarda i presidi diplomatici francesi in vari paesi del Medio Oriente e dell'Africa. Al centro delle polemiche, prima il film, come sapete, di cui si parla ormai da giorni, poi le ormai celebri vignette pubblicate in Francia da Charlie Hebdo, ritenute blasfeme dalla comunità musulmana, o almeno da parte della comunità musulmana. Poi la sentiremo, naturalmente chiederemo la loro opinione. Facciamo però il punto sulla mattinata, quindi il quadro della situazione a questo momento. In studio accanto a me Laura Bettini. Buongiorno, sì, la mattinata, appunto, come dicevi, tranquilla in molti paesi arabi, dove le autorità hanno comunque disposto misure di sicurezza eccezionali, quindi questo è significativo per evitare nuove proteste contro obiettivi occidentali per il film prodotto negli Stati Uniti e le vignette su Maometto che sono state pubblicate in Francia, considerate blasfeme. Ma certo il pomeriggio è ancora lungo e quindi dovremo vedere nelle prossime ore. Facciamo il punto di quello che è accaduto stamattina. In Tunisia sono vietate le manifestazioni o gli assembramenti, è stato anche bloccato il traffico nelle principali arterie, cosa che non era accaduta neanche nei giorni della rivoluzione. In Pakistan, sospesi i servizi di telefonia mobile in 15 città, cordoni massicci di protezione attorno alle sedi diplomatiche americane. Qui l'amministrazione Obama addirittura ha acquistato degli spazi pubblicitari sulle catene televisive principali pakistane per trasmettere degli spot in cui spiega l'estraneità del governo americano con il film anti-Islam. E poi la Francia è ovviamente in allerta dopo la pubblicazione su Charlie Hebdo di queste vignette, anzi ripubblicazione di queste vignette su Charlie Hebdo. Una manifestazione è stata vietata alla Grande Moschea di Parigi, severe misure di sicurezza in città, tensione anche a Marsiglia. Ambasciate, consolati e scuole francesi in una ventina di paesi islamici sono stati chiusi per precauzione. C'è prudenza ovviamente anche in Germania, dove risiedono migliaia di musulmani che manifesteranno nei prossimi giorni in diverse città contro la diffusione di questo film in uno spazio privato a Berlino e la pubblicazione di vignette altrettanto tanto satiriche sull'Islam, su Maometto, su una rivista tedesca. In Italia cosa sta accadendo? Nulla di preoccupante al momento, abbiamo anche contattato l'ambasciata francese, ci ha confermato la situazione è tranquilla per quello che li riguarda in Italia e tra poco parleremo anche con uno dei rappresentanti della vasta comunità islamica in Italia che vorrebbe evitare degli scontri e le proteste di piazza, sia pur ovviamente criticando film e vignette per i loro contenuti. Poi c'è la presa di posizione da parte della Lega Araba, dell'Unione Africana, dell'Unione Europea, la Conferenza Islamica, che tutte insieme condannano le violenze dei giorni scorsi e poi dicono anche l'unica risposta al buio dell'intolleranza e dell'ignoranza è la luce del rispetto reciproco e della tolleranza. Allora, a questo proposito, vi facciamo ascoltare Magdi Cristiano Allam, che è intervenuto questa mattina nella trasmissione 24 Mattino, molto scettico. Magdi Cristiano Allam, giornalista europarlamentare di Io Amo l'Italia, rispetto alle possibilità di dialogo e di rispetto reciproco. Sentiamolo. Sono stato musulmano per 56 anni e sono perfettamente consapevole che ci sono tanti musulmani per bene, di buona volontà, con cui noi possiamo dialogare e convivere in un contesto dove si rispettano i valori assoluti e universali della sacralità della vita, della pari dignità tra uomo e donna, della libertà di scelta, compresa la libertà religiosa. Ma un altro conto è l'Islam come religione, perché se noi leggiamo il Corano, se noi leggiamo la biografia ufficiale di Maometto, bene, noi troviamo all'interno un'ideologia che istiga all'odio, alla violenza e alla morte ed è la ragione per la quale negli ultimi 30 anni nei paesi a maggioranza islamica assistiamo ad una involuzione, ad una radicalizzazione sfociata nel terrorismo islamico che prima ha colpito i paesi a maggioranza islamica e poi è sfociato, ha dilagato anche in Occidente. Pensando a quello che sta accadendo in questi giorni, quindi la pubblicazione di queste vignette che segue un'ondata di violenze dovute alla uscita, per così dire, di questo film su YouTube, in questi casi dobbiamo tenere presente il tema della opportunità di fare una scelta come quella di pubblicare le vignette? Se noi dovessimo introdurre il concetto di opportunità legato al concetto di verità, affermando che la verità può essere detta solo se è opportuno dirla, ebbene noi finiremmo per introdurre una realtà di totalitarismo dove ci imporremmo un'autocensura qui in questa terra di libertà e di democrazia, dove preventivamente finiremmo per non dire e per non fare tutto ciò che può irritare, cioè tutto ciò che può suscitare la violenza da parte degli islamici. Noi dobbiamo salvaguardare il nostro diritto e il nostro dovere ad affermare la verità. Voglio essere molto più esplicito. Se nella biografia ufficiale di Maometto, che è un testo riconosciuto come autentico da parte dei musulmani, c'è scritto che Maometto sposò una bambina di 6 anni, Aisha, e se nella biografia ufficiale di Maometto c'è scritto che nel 627 alle porte di Medina partecipò personalmente allo sgozzamento e alla decapitazione di circa 800 ebrei della tribù dei Banu Quraiza. Bene, mi domando, questi fatti possiamo affermarli o no? Possiamo limitarci a leggere ciò che è scritto in un testo che loro ci dicono essere autentico? Ecco, questa è la domanda. Questa dunque è la domanda che pone Magdi Cristiano Allam, una domanda che però non vogliamo girare alla persona che vi stiamo per presentare, perché insomma ci pare che ci addentriamo in questioni un po' complicate da sbrigliare. Allora presentiamo il nostro prossimo ospite, Fouad Aoudi, rappresentante delle comunità arabe in Italia. Buongiorno Aoudi. Buongiorno a voi. Allora Aoudi, lei è rappresentante delle comunità arabe in Italia. Come state vivendo queste giornate? E poi volevo chiederle, ma lei l'ha visto questo film? Ma io ho visto un pezzo di questo film, a parte il film, lo stesso attrice di alcuni dei protagonisti hanno detto che non sapevano che dovevano fare questa cosa, ma poi una cronaca giornalistica. Che certo, bisogna vedere. Seguendo. Ma lei quindi un po' l'ha visto, ma si è sentito offeso, perché più che un film offensivo forse è sicuramente un film brutto. Vanno chiariti 3 concetti importanti. Uno, noi siamo contro tutte queste provocazioni gratuite che ho chiamato da ieri a oggi con le varie colloqui che stiamo facendo, per dire no a ogni qualsiasi provocazione contro qualsiasi religione, ma questo non giustifica mai la violenza e le manifestazioni violente nei nostri paesi. Poi per quanto riguarda la nostra posizione in Italia, per fortuna non c'è nessuna manifestazione, lo stiamo dicendo a tutte le nostre comunità dove ci sono tanti contatti, che tante ritengono non opportuno rispondere perché è una provocazione gratuita, ma la cosa che ci preoccupa è che queste provocazioni gratuite si stanno ripetendo molto spesso in questi giorni già caldi per la primavera araba, che è iniziata in Tunisia e in Egitto, poi per vari motivi questa primavera araba è stata scavalcata da altri motivi. Ecco, ma lei parla di provocazione, e se invece io le dicessi che è libertà di espressione? Noi siamo, non siamo per la censura, noi siamo contro ogni offesa religiosa. Riguarda la religione islamica, riguarda la religione ebraica, riguarda la religione cristiana, visto che noi musulmani e tutte le religioni possono convivere, abbiamo apprezzato molto la visita del Papa in Libano, è stato accolto. Io vedo nella visita in Libano un messaggio di pace, un messaggio di dialogo. Certo, ma secondo lei, che prima appunto parlava di provocazione, chi è che avrebbe interesse a rompervi le scatole? E questo è il punto che tutti se lo stanno chiedendo. Come mai in questi giorni, proprio che la primavera araba ha fatto cambiare alcuni governi sono di religione islamica, ci sono le elezioni in America, Obama all'inizio del suo insediamento ha detto io voglio parlare col mondo islamico, oggi vediamo altre iniziative, c'è la comunità europea che la sua politica estera è quasi zero, ci sono altri paesi che hanno interessi. di provocare o farsi, non dico paesi come governi, ma ci sono alcune forze politiche che hanno l'interesse a questo punto far vedere che l'Islam purtroppo è una figura non ben accettata. Io mi permette, io posso chiedere rapidamente tramite la vostra radio preziosa che mi ha ospitato tante volte, chiedo direttamente al governo italiano di prendere una iniziativa forte in politica estera e dialogare con i nostri paesi arabi, paesi vicini. Io sono italiano prima di tutto e parlo come italiano di origine araba. La seconda, l'informazione in Italia è maturata molto e grazie all'informazione che è maturata ultimamente non vediamo più ospitate in alcune trasmissioni persone estremiste che istigano all'odio o fanno sembrare l'Islam o altre religioni in un altro modo, e poi noi diamo la nostra risposta. Qual è la nostra risposta? Siamo in questi giorni ufficializzando il nostro movimento federativo di tutte le comunità e di tutti i professionisti italiani di origine straniera, uniti per unire. Grazie. Dire, tramite i professionisti noi possiamo dare un segnale di pace e di dialogo. Grazie infinite a Fouad Aoudi, rappresentante delle comunità arabe in Italia. Voliamo invece a Parigi, perché sembra davvero un paradosso in questo clima, ma in questi giorni a Parigi vengono inaugurate delle nuove sale dedicate alle arti dell'Islam al Louvre. E a coprire il nuovo dipartimento c'è una struttura che ricorda il velo islamico, è molto bella, la potete trovare in rete. A disegnarlo è l'architetto italiano Mario Bellini. E allora sentiamolo al microfono di Adriana Fracchia. Inaugurare in questi giorni un'opera che ha questo tema, che risponde a questo tema, è una straordinaria opportunità, è un gesto di amicizia, è un gesto di cultura e di politica lungimirante, partito 10 anni fa. Come dicevo, quando appunto, il presidente Chirac aveva avuto l'intuizione di aprire, di fondare il nuovo Dipartimento delle Arti Islamiche e di dare adesso una sede degna. Insomma. E quindi è stata la lungimiranza 10 anni fa, quando già i tempi erano complessi nelle relazioni fra civiltà diverse, religioni diverse, che oggi questo consente ancora di fare un gesto intelligente, no? Politicamente e culturalmente molto intelligente, di apertura, di amicizia, di vicinanza e di apertura allo scambio. Grazie a Laura Bettini per aver curato questo approfondimento. Lunedì alle 13:30 scuola in controluce. Un saluto da Maria Piera Ceci.